sulle note di Ecco il sole del mattino, l'inno della Corea del Nord, o meglio della Repubblica Popolare di Corea. Come si fa a non tifare una squadra dove forse faranno vedere la partita anche in diretta, ma con le immagini un po' più ristrette, prima che si veda magari la pubblicità della Coca-Cola, e scrive il Riformista, uno in Corea del Nord si faccia venire un'idea strana, tipo bersi una Coca-Cola insieme alla razione di riso giornaliera. Come si fa a non tifare una squadra dove probabilmente erano figuranti cinesi assoldati, quelli che sventolavano la bandiera allo stadio, all'esordio contro il Brasile, questa squadretta? Come si fa a non tifare una squadra dove pare che 4 giocatori siano letteralmente scomparsi? Chi li ha visti? Ahn Chol-yok, Kim Yong-won, Kim Kyong-il, Park Sung-yok. Dove sono? Non ci sono più. Erano con la nazionale, non ci sono più. Qui si tifa, almeno io,